handgun and long rifle a guffanin. The streets now no governing. It's a free for all, can't get peace at all. Soul a fly away like a Peter Paul. See it's all clear and evident, caused by the decadence. CIA intelligence, now Netflix have the evidence. And man a shoot pastor in a church, man a shoot father in picnic school. Some different man a set the rules, hey. Matter fuck, no one sing about them thing, ya. When man can't even manage, put them garbage in a bin, ya. Food box out a car window, a clog up the drain. Then when the flooding start, the government them get the blame. My brothers, it is a shame, more time we feel embarrassed to be part of this generation, causing all these havoc. Man, I'm with that, a man wouldn't even care about him offspring. Bumba clap, stop singing. I'm missing out another word, we're not going no further. What that they are wanting to hurt ya. The youths them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing out another word, we're not going no further. Your baby mother, you got murder. Revelation tell me, so I guess this is the end of day. Hey, my brethren, protege, there's so much more to say. Hold the place I run, I know we have to open, pray. Cause when them come with them, I'm just lost. The youths, I said they want to be. The bread of all them start, I go to spot the youths at play. I'm not on the basic school, they mean a shooting range. So only if I lick a tad, then I'll go see another day. Then all I will not turn a blind eye, them I turn the other way. What's the agenda? It's coming like them November said. We will only give up on the 48th of November. We have a strong alliance with the ultimate defender. And all the tech for bundling Babylon is just an ember. Oh, pull out the weakest link, them fall like Jenga. Line up at your cable box like a bird box challenger. Cause how can you not see that while you video them a render? If you don't know there's a battle, then you've already surrendered. Not another word, we're not going no further. What that they are wanting to hurt ya. The youths them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing out another word, but now I'm gonna further. Your baby mother, you go murder. Revelation tell me, so I guess this is the end of day. Yes, this is the end of day. Put the tax man with toll. I'm using your authority. must have to go on. You're running soul city like a big shit show. And now it's time for you to leave your children alone. Play iniquity workers, I'm gonna weep and moan. Cause if you're drumming this way, I'm gonna fling rock stones. So, no officer, I'm missing. No officer, no officer, no officer, hey. No officer, mm-mm. No officer. No officer go long. No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. Anything me say, what you say? No officer. E adesso proseguiamo e andiamo ad ascoltare l'ultima produzione di Mario Lanza insieme a Mattune. Questa è Unity e subito dopo ascolteremo la loro intervista. One. Original Mattune, Mario Lanza Production, Nowband Unity, Sound Unity. Voglio viaggiare insieme alla bassline, la sento l'energia di queste vibes. Se la tua è negativa vai via da questa yard, solo amore. Quando non si cai sempre una malattia. Con gli amici miei vi già avuto un crew. Senza penso agli soldi ma tu alle views. Perché l'orecchia media sempre solo pace e armonia. Quello vicio sai quella da te noi. Mi metto le ocore, metto le a capo. È solo ignoranza, serve collettività. Mi portiamo innanzi sta cultura che ha sempre educato ogni samboy ed ogni gal con la positività. Voglio viaggiare insieme alla bassline, la sento l'energia di queste vibes. Se la tua la sento l'energia di queste vibes. Se la tua è negativa vai via da questa yard. Solo amore ed unità. Big up a tutti gli amici di Port Royal da Mattune. Nella yard solo smile. Se te ne arrabbia in capo non poti stare guai. Rimani ghettizzato con le paranoie toi. Caso tu non san boy che non cerca li guai. Salento style raga ma fin dancehall. Alla console ti da balli su flow. Love and unity per sta passione elevare. Balla come meglio sai fare. Voglio viaggiare insieme alla bassline. La sento l'energia di queste vibes. Se la tua è negativa vai via da questa yard. Solo amore ed unità. Insieme alla bassline. La sento l'energia di queste vibes. Se la Ciao Mattune e Mario, come nascono le vostre collaborazioni? Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie dello spazio, è un piacere essere qua insomma con voi. Le collaborazioni mie e di Mattune nascono dal semplice gusto di stare insieme e di fare musica, che penso che è la cosa che più ci accomuna. Il primo pezzo che abbiamo fatto insieme si intitola Sud Estate, ormai qualche anno l'abbiamo fatto insieme a Bindolo, un altro cantante salentino, e ha avuto anche un notevole riscontro qui in zona. Poi abbiamo fatto un altro brano dal titolo Coca Virus nel periodo pandemia, e ora siamo ritornati con Unity, questo brano roots reggae insomma molto canticchiabile, Cosa vi ha ispirato per la nascita di Unity e per la nascita del Riddim? Unity nasce fondamentalmente dal desiderio mio e di Mattune di fare un bel pezzo e di lasciare un messaggio positivo, che poi è quello che ci insegna la musica reggae, che è quello dell'unione, della tolleranza, del rispetto, del viaggiare con le vibes, no? E appunto è venuto fuori questo progetto qua, che è stato prodotto da me con le chitarre e il basso di Papaleo, di Adriatic Sound, il sax di Chiuppo, che è un ragazzo che appunto suona i fiati negli Shantipawa. E adesso andiamo ad ascoltare Sud-Est, prodotta, scusatemi, sempre da Mario Lanza, Bindolo e Mattune. Listen up! Originale Bindolo e Mattune, alzami la mano se ci stai. Oh, oh, raga, mo, finale danza, lo stai là. Stamme dole la capa, ancora una fiata, guardo lo sole, casa in faccia sul mare. Passami le ore, il giorno in prima arriva l'alba, pintinato pezzo che la musica ne salva. C'è la gente che ancora le balla, ci sei vive una cosa oppure chi ne gira un'altra. Muovite, fai un altro passo nella danza, e conti una storia sulla musica d'ulanza. Se ferma lo tempo quando i dancini a balla, l'estate non merra noi menato in sulla folla, ci culli infradito, ci culla cravatta gialla, a qua se balla, sempre fino all'alba. Sulla vicina di una ballerina, anche nell'adrenalina, puro con una radiolina. Guarda come la guida, basta me sta cartina, che ci metto nella capo e muto mi aiuta un'aspirina. Sulla stradale verso le c'è ancora deboli, Calangover della festa gioca a Gallipoli. Mattina Torre dell'Orso, tramonto a Torre Suda, dopo un bel tuffo su una concia cruda. Primitivo rosato, bello frisco frisco, assunto cotriero con un bello disco. La sera è più dolce con la malvasia nera, bello guardato per dopo l'uma manera. Sametole la capo ancora una fiata, guardo lu sulle case in faccia sul mare. Passa nelle ore in ciole, prima arriva l'alba, metti in allo pezzo che la musica ne salva. C'è la gente che ancora le balla, ci se vive una cosa oppure chi ne gira un'altra. Muovite, fa un altro passo nella danza, te conto una storia sulla musica d'ulanza. Ma come faccio un tuffo allo pizzo dello diavolo, da montagna spaccata poco me ne faccio un atto. Rotta da poesia, me da fisco dello cauto, me faccio una sbagliata poco riapporto selvaggio. Un, due, tre, dici ma come, che dopo la quarta birra non ci vedo bene. Ben già guidati e cascinimo a mare, che montiamo la tenda per dormire insieme. Allora dimmi la moce sta piensi, all'estate io non voglio penso a niente. Ciao, ma se non trovo manco li muerti, come meno sono un po' sopra l'exit. Poi la sera si scucca tra le mille serate, e lo figo all'omolo fino da casa l'abbate. Ci sono sui palchi, cinque sulle strade, notti della taranta, me pazzo tutte le date. Stamettole la capo ancora una fiata, guardo lu sulle case in faccia sul mare. Passa nelle ore in ciole, prima arriva l'alba, intinando penso che la musica ne salva. C'è la gente che ancora le balla, ci si vive una cosa oppure chi ne gira un'altra. Muovite, fai un altro passo nella danza, te conto una storia sulla musica d'ulanza. Fino a crai, a crai, suonala sempre più forte. DJ, DJ, intila ancora una fiata. Fino a crai, a crai, suonala sempre più forte. DJ, DJ, intila ancora una fiata. E il master è stato fatto a Kingston da Jay Twiss al Clear Sonics Studio. Diciamo che da anni c'è questa voglia di autoprodursi e proporre la propria arte, la propria musica, il proprio modo di vedere le cose attraverso la musica, appunto. Oltre a Unity, insieme a Mario, ho pubblicato proprio ultimamente con Bindolo, un altro artista salentino che ha citato anche prima Mario, e abbiamo pubblicato un brano d'amore dal titolo Alla Luna, su una produzione di Prince Vibe. Questo è un brano dalle sonorità, diciamo, un po' meno reggae ma più urban, dove parliamo di quest'amore perso e di questa connessione che c'è con la luna, quando si sta lì a guardarla, a meditare, appunto può essere un mezzo di connessione anche tra due innamorati che sono lontani. Quindi un altro brano è stato già pubblicato. Poi, per l'esattezza, il 3 marzo, sia io che Bindolo siamo presenti sul un Riddim di Warpath, un altro salentino, dove c'è un bel po' di cantanti della scena salentina, tra cui il ritorno anche di Lumarra, Il mio brano in particolare si chiama Forward e sarà fuori appunto il 3 marzo su tutti i digital stores. Quali saranno i vostri prossimi progetti per questo 2023? Il prossimo progetto, almeno da parte mia, sarà un'altra release su questo rhythm che uscirà a breve, e un altro paio di tracce penso per maggio arriveranno. Aspettative particolari dal 2023? Ho in mente di proporre tanta musica, visto che è partito già con la pubblicazione di due brani, ovvero Unity alla Luna, in più il 3 marzo il mio nuovo singolo Forward. Sarà un anno pieno di musica, quindi continuerò a lavorare su questo, a pubblicare. Ho in ballo anche un progetto musicale con dei musicisti, che sicuramente per l'estate saremo fuori con un po' di live in giro per il Salento, e con i quali abbiamo anche fatto dei nuovi brani, dei nuovi inediti che ancora non abbiamo rielaborato in studio, però forse proporremo già live. E quindi diciamo tanta musica e tante buone vibrazioni per tutti. Yaman! E adesso andiamo ad ascoltare proprio l'ultimo brano uscito il 14 di febbraio, proprio il giorno di San Valentino. Alla Luna, Mattune e Bindolo, canzone dedicata a tutti gli innamorati. Questa notte se tu vuoi puoi chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Perché poi in fondo basta chiederlo alla luna, alla luna. Se l'amore vola libero su tanno tempo limpido, la luna illumina tutto l'ucelo. Io la saccio che ci gridi e a idra ti sorridi e ci sape ci terria poi sto pensiero. Fazzo vita dei nenti, ma lo pensiero dome devasta. L'amore senza problemi, solo se dai la stessa importanza. Cresciuto sopra criteri, guidi più veri e meno pensieri. Tocca solo pulamo liberi, senza cussimo dei prigionieri. A fiate guardo la luna, come ricordo dei momenti. Era proprio forte l'amore, altrettanto li fallimenti. Io ci penso e meglio stavo solo, senza cuttegno muti rimpianti. Perché tanti e troppi pensieri, sai, gli sguardi diventano assenti. Allora zico tutto de capo, io rimasto proprio accecato, sai che forse io m'ho sbagliato. Era proprio amore malato, l'ultima fiata che t'ho imbrazzata. Quando eri da ero affiatata, te quando t'ho allontanata, niente come una fiata. Questa notte se tu vuoi puoi chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Perché poi in fondo basta chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Questa notte se tu vuoi puoi chiederlo alla luna. Anche tu, chi la vede sotto la vede lassù, riflette forte sul mare blu, sogno e pensiero, sogni e déjà vu. A ieri sera che ha perso de die, senti a calore, senti alle energie, ma questa sera non sai cosa dire, in questo momento ti vuoi maledire. Guardo la luna, per me questo è il mood, a capo metà se mi rimani in loop. Dal finestrino la guardo da un po', mi chiedo ancora se ripartirò. Stare vicini a luce bassa, sembra che il tempo non siamo abbastanza. Chiedi alla luna quanto mi manchi, quando tu parti e siamo distanti. A tie, brillo forte, penso ancora a tie. Un patto stasera me viene va lontano, prendere il primo biglietto e fuggire dalle follie. Uliato sul lume iude mie, ma a certi momenti è come se ne cechi. Ha la risposta ma non la vedi. Guardo sul cielo rigato, calza brilla di luce riflessa. Lo sai che viene della luna e ida casa lo colora. Ulia con te da tutto quanto, ma brucio pure tu picca categno. Lo sai che ti ha aiutato tanto, scini di casa amore che sta avvenendo. Questa notte se tu vuoi puoi chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Perché poi in fondo basta chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Questa notte se tu vuoi puoi chiederlo alla luna, alla luna, alla luna. Perché poi in fondo basta chiederlo alla luna. E continuiamo, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23 su Pirate Radio. Qualche giorno fa ci ha lasciato Trugoy di Dav, del trio hip hop della Soul, e quindi ci andiamo a sentire Ain't No. Greetings, girl, and welcome to my world of phrasing right up to bat. It's the daisy age, and you're about to walk top stage, so wipe your lottos on the mat. Hip-hop love this is, and don't mind when I quiz your evolvements before the sun. But clear your court, cause this a one-man sport, and who's better for this than plugged one? Plugged don't one. Have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze a frame of our moves the same, wish we can right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures or regardless to the fact that I'm past the noose, but because I know I love you better. I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Pluck 2, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is 2, cause it takes 2, not 3 to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I know I love you better. Now it's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand and we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Life will begin at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward marching to say when transistors will play, coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause I know I love you better. It's I again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pop's brother Lucky will preach, let the wedding begin. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true boy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone, and we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how I know I love you better. E continuiamo dopo il giusto tributo ai De La Soul, ci andiamo a sentire, a festeggiare il compleanno di Ali Campbell, cantante degli UB40. E pensate, gli UB40 sono l'unica band non giamaicana a far parte della Reggae Hall of Fame, e quindi facciamo tanti auguri ad Ali Campbell. Nato proprio oggi, il 15 febbraio. Come un'altra persona. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, baby, if that's true. Cause you got me, baby, I got you. Babe, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. I guess that's so weird. continuiamo a fare gli auguri ad Ali Campbell. Ci andiamo a sentire un altro dei pezzi storici dei Music 40. Red, red wine. Con questo secondo pezzo finiamo il nostro tributo a Ali Campbell, facendogli ancora tanti auguri. Oggi è anche un compleanno di un altro artista, per modo di dire, cioè il mio. Due settimane fa sono stato ospite dai Ratatouille, che vi ricordo, anzi dai Kawa Sound, insieme ai Ratatouille, che vi ricordo tutti i giovedì vanno in diretta con Reggae Mania, e finalmente siamo riusciti a caricare sul sito www.pirateradio.it quella puntata e ci andiamo a sentire un piccolo estratto. Direttamente nel bunker del Kawa Sound System, Ratatouille Live. È la mia incursione, che così mi faccio l'augurio. Parole moleste, la serata è un po' fredda, ma c'è Kawa Sound che te scalla e la radio che non va in diretta. Fino al team col piano piano cominciamo, no? What a promise land. Bless. bless up Rata to you. Yo, Rata to you, bless up yourself. Like a Jamaican styler. Pure se non so stai pure se non so che stai. They might win the battle, they'll never win. Nella confusione degli steel pulse, ancora che cantavo, ancora che stiamo qua. Big up a Kawa Sound, big up a Ratatouille, che ancora andava avanti e ancora. Allora via, Inna Freestyle, cerca il disco, spiccialo, levalo, fa così, oh! Metteci sto ritmo, dai, e GG! Otello Inna di Bunker! E piano piano, bisogna prendere il bouncing giusto, sweet and bouncing! E poi cominciamo. È l'ordinanza che a me mi mette l'ansia. Mai da di perché vuoi bevo solo nella stanza. Boh! Oh, a Bologna mi ci hanno richiamato. Queste sono le cose che succedono in diretta. A Bologna mi ci hanno chiamato per tre volte per sta canzone, più o meno. Cioè, per dire così. Cioè, no, perché obiettivamente tutti me si ricordano perché sono simpatico, sono carino, ma. E l'ordinanza che a me mi mette l'ansia, tu mai dati perché vuoi bevo solo nella stanza. Mo l'intolleranza che crea la violenza, no, il peroncione come dice l'ordinanza. Mo è l'ordinanza che a me mi mette l'ansia, mai dati perché vuoi bevo solo nella stanza. L'intolleranza che crea la violenza, no, il peroncione come dice l'ordinanza. Mo mi ero una volta fretta per tornare alla mia casetta. Quando vedo la stessa alla casetta che mi ha letta, prendo posto Naperoni, dopo mille insinuazioni. La convinco selvarista, me la infila nella busta. Prendo posto sulla panchina, quella lì vicina. Vedo una volante, ferma lì poco distante. Sto tranquillo, non c'ho niente, ne manco la patente. Resto fermo, non mi smuovo. Arriva in macchinetta e l'ordinanza che a me mi mette l'ansia. Basta che c'ho Kawa Sound nella stanza. L'intolleranza che muta la violenza, no, i Ratatouille che vanno mo. Sto qui a cantar Codello, ma che bello, ma che bello. Sto qui a cantar Codello, ma che bello, ma che bello, ma che bello. Io vorrei fumare uno spinello, ma non posso, no, non si può. È proibito, no, non posso, però te lo dica adesso. Posso, ma che bello, sta qui co canta Odello. Ma che bello, sta qui con te. Vuoi la registrazione, ovviamente, questa cosa. Questo è uno special. Ma che bello, ma che bello. La sigla. Ma che bello, sta qui a canta con te Odello. Ma che bello, non me pare, non me pare vedere. E addirittura io mi emoziono. Ma che perché? Bello, che bello, dai regà. Ma perché mi emoziono? Ma perché? Aspetta, lascialo sto rhythm. Perché mi emoziono? Sai perché? Perché? Perché radici, cultura, embriagatura. Voglio andare avanti finché dura, va verdura. Radici, cultura, embriagatura. Sta vita assai dura, voglia controfigura. Radici, cultura, embriagatura. Voglio andare avanti finché dura, va verdura. Radici, cultura, embriagatura. Ce voglio andare avanti finché dura. Se mi becchia il bunker che de è giovedì, voglio avanti avanti e giocherò così. però sono emozionato, famos a capì, non capisco più manco quando faccio speech. Insieme ai Ratatouille, sai che è un bel momento, insieme ai Kawa Sound, lo sai che mi fomento. E arrivati a sto punto, lo sai che m'accontento, e forse direi una giun e andiamo contento. Let's up yourself, regà, che piacere, che onore stare qua con voi. Questo era quello che succedeva nel bunker dei Kawa Sound insieme curva, a Ratatouille. Prima curva tornando a casa. Vi ricordo che potete trovare la registrazione completa sul vostro sito pirateradio.it. Vi ricordo anche che venerdì ci vediamo tutti alla Casa della Pace, che dopo anni ritorna ad ospitare una sana dancehall, proprio anche insieme agli amici Kawa Sound e un sacco d'altra gente. E sabato ci vediamo insieme a Iso Roots e soprattutto il live showcase di Rasta Blanco, Radici nel Cemento. Venerdì Casa della Pace, sabato Sally Brown, Tauli Bibash. Già non è professionale, il musicista serio e competente, ha un approccio assai più regolare e un profilo sobrio e convincente. Ma io senza una birra non so stare, a Casa della Pace non sono concentrato per formare l'evento. Il 17 di marzo, sempre con Kawa Sound, sempre con noi di Pineapple Babylon. Listen! Sul papà, passa e gira tutta la nottata sul papà. E se la compagnia è quella adeguata sul papà, c'è scappa una bevuta e una sonata sul papà. La scampagnata sul papà, facciamo fiesta è quello che mi gusta sul papà. E se la gente intorno è quella giusta sul papà, vedrai che qui nessuno dice basta sul papà. Ogni tanto stecco qualche accordo, sorvolando sopra un do maggiore, ma di una cosa già mai io mi scordo, il vino sopra l'amplificatore. E se intravedo spiagge lì vicino, mi vedi all'orizzonte col pattino, ma guarda che il problema non ci sta, appena è pronto in tavola sto là. La scampagnata sul papà, passa e gira tutta la nottata sul papà. E se la compagnia è quella adeguata sul papà, c'è scappa una bevuta e una sonata sul papà. La scampagnata sul papà, facciamo fiesta è quello che mi gusta sul papà. E se la gente intorno è quella giusta sul papà, vedrai che qui nessuno dice basta sul papà. Sono brille un po' distratto, il manager mi guarda proprio male, ma se mi passi un tiro di soppiatto, rivolto il palco come uno stivale. E adesso tutti in sella si riparte verso nuove mete di vacanza. E scusa se non riesco a stare senza, e se non vuoi vedi pazienza. Passa e gira tutta la nottata sul papà. E se la compagnia è quella adeguata sul papà, c'è scappa una bevuta e una sonata sul papà. La scampagnata sul papà, facciamo fiesta è quello che mi gusta sul papà. E se la gente intorno è quella giusta sul papà, vedrai che qui nessuno dice basta sul papà. La scampagnata sul papà, passa e gira tutta la nottata sul papà. E se la compagnia è quella adeguata sul papà, c'è scappa una bevuta e una sonata. E quindi con Rasta Blanco ci vediamo sabato 18, sabato questo, al Sally Brown per la seconda giornata del Tauli Bibash, Pineapple Babylon, Soul Roots, Rasta Blanco e un sacco di ospiti a sorpresa. Andiamo avanti, ci avviciniamo alla presentazione del nuovo singolo di Virtus. Facciamo intanto un ripassino di qualche pezzo già conosciuto e già edito. Yeah man, this a double champion, the fire pan Babylon. Adesso andiamo ad ascoltare il nuovo brano di Baboom Prophecy featuring Virtus, nuovo disco reggae. I Baboom Prophecy è un progetto reggae hip hop formatosi nel 2021, che anche elementi vanno dal soul fino al funk, al jazz e all'afrobeat. La musica di Baboom Prophecy è una delizia, è una deliziosa, scusi, miscela di suoni che parte quasi sempre dalle basi dell'hip hop, ma non obbedisce a nessun modello prestabilito. Così frammenti o rimanescenze di reggae, soul, funky o jazz, per citare, sono i più comuni e possono suggerirsi nella stessa traccia. Susseguirsi nella stessa traccia, ovviamente. Il primo singolo ufficiale che avvia il progetto è Time So Hard, in cui Taiwan MC e Sailor Smile collaborano alla voce. Ma adesso andiamo ad ascoltare il brano New Disco Reggae insieme a Virtus, Baboom Prophecy. Thank you, everybody. Let me introduce you the super powerful new disco reggae. Come in. We want a new dance era. Disco reggae. This one is a run on a Porsche. Disco reggae. This one is a run on a Porsche Carrera. Don't give me free. We recommend stylish like Brigadeira. Disco reggae. This one is a we want a new dance. If you a lawyer, bus driver, or a working man living in a skyscraper, or a liquor farming fuel lamp, this was me say, oh, you do the rubber dub. Busy makes you free, follow me, do the rubber dub. Chop! We no need no dagga dagga. We mash up the place, member, we no lava lava. Leave your home now, right away for all the clutter. Every time you need the member, you know where to find us. Everything Christmas, baby's coming. Sure, baby, you see my happiness, I need her. I see the dance floor like a tempo, and all my people say yeah, yeah, yeah. I saw me sing it like everyone's a new dancer. Come avete potuto sentire in precedenza, si trattava di un tributo al compleanno passato a Tauli. Siamo andati in onda per varie vicissitudini, sia legate alla crew, sia per quanto riguarda la manifestazione del 22 febbraio di Valerio Verbano. Ma ora siamo nuovamente qui, sempre Breaching chats me and I got waste your time. Reach the sky with this a new disco era. True, it's a true, not a chimera. True. We no need no dagga dagga. We mash up the place, member, we no lava lava. Leave your home now, right away for all the clutter. Every time you need the member, we want a new dance era. Disco reggae, this one is a run on a Porsche Carrera. Come give me free, me recommend stylish like Brigadeira. Give me freedom. Adesso proseguiamo sempre con Virtus, questa volta in un dubplate, tutto per Fire Upon Babylon. Yo man, this a dubplate champion, the Fire Upon Babylon. Me no know a better sound, article sound. Run selector. Take her, Fire Upon Babylon, naughty babe. Watch come around, watch tell her have no rest, take her. When you hear this, that plate, Fire Upon Babylon, mash it up in every place. Fire Upon Babylon, naughty babe. Watch come around, watch tell her have no rest, take her. When you hear this, that plate, Fire Upon Babylon, mash it up in every place. Mash it up! When you know this, your sound make you dance. Follow me, Panda, the shine member, what the champion, Italy, we come from, we fire upon Babylon. Hush, make me feel like a judge, soldier. What tell her, make me feel like a Harry Man soldier. Move your body from the legs to the shoulder, fire upon Babylon, the ruling sound. Hush, play that tune, cause the girl, them a bubble, article sound, them a killer sound. Fire upon Babylon, na the bass. Watch come around, no tell her have no rest, take her. When you hear this, that bleed. Fire upon Babylon, mash it up and never sleep. I see them dealing with the youth, them like an asset. Selling out with dancers, we put money in them pocket. On the youth, them lock it long before them in them teens. No English mathematics, just somatic in them jeans. Say that a the regime, autocratic with the scheme. Cycle now go stop it as dramatic as it seem. Our children, them have dreams in their eyes, I see the gleam. We need for make them know, so them are king and them are queen. When the little girl I walk, just lower make she pass. Every day you want your dirty big man friend I talk about her. But you ride a shot, so no one fi take it off. I lurking at the dark of them, you think you get me cross. Mommy, where is your daughter? Oh, Papa, where is your son? What's gonna happen to a future? When we thought that them lost, and we son of us gone. From the yard, you bend the tree. The youth first teachers is immediate family. But mommy, I fi gonna work that in a penitentiary. So what's it gonna be? Who's gonna boil the baby pee? Well, uncle had a work, no him there, ya yard alert. So my whim find himself on the little nana skirt. Traumatized and open her future on the line. Them that you spoke, energies you evoke. They must be your reflection. I emerge from the shadows with my big spliff aglow. Kabaka sent to call me, said the war it ready now. Raga send me on the road with the magazine them load. Lyrically rapid fire when they attack in the crowd. Anytime we come around, more power and the sound. Surrender to the struggle is a thing we'll never do. The example has been shown, some believe and others know. Rastafari make the call, my brothers and my sisters more. Better let them throw brute force on the front line. Youth force, it's your time. Rastafari, call ya, call ya, call ya. King Selassie, yeah, yeah. Call ya, call ya, call ya. Hey, hey, hey. Get to know your king and watch him in your suffering. No pay no mind to none of the stones where they might fling. Hey, ready and fit firm, the revolution start within ya. Yeah. On the front line, not inside, deep in true. Now we no step without an extra clip. Oh no! Stop all the tanga and a counterfeit. Oh no! Firm grip on the truth, we are the youths. We know the value of the roots. Refuse to lose any more profits. Yeah. It's not about no doctrine or religion. It's my actions and decisions. Cause these tracks, them man, I sing on them impact how people live. But some up with us lacking vision. I know you're not for be a mathematician. For see how poverty attracts attrition. The youth, them growing up without no stable father figures. And the school, not really give them no foundation. Figure build points. So them take it to the street. And all them faces opposition and restriction from police. And politician every day. Oh, you been warned. Are we not playing around? The day is come, so sound the alarm. And yeah, we breaking down. Oh, yes, tearing down. So calm in the storm. And yeah, we raining down. It raining down. The third time's the charm. Charm. Hey, hey, hey. One of a kind style. You agree? I the map the art. When them a pre-eye, when them sight, you destined for heights. Them get plenty idea where them use trick plenty guy. My rep J.A., I know what them feel like. Me, I do the music from me knee high. Use a listen, cash and free eye. When pick me did, I was G.I. Joe, me did, I smoke the eye. Draw the pan ganja farmer, no, no old McDonald E.I.O. Never learn physics or B.I.O. Yet a girl, I give me chemistry, I see, I know. I used to invisible, I bet them see, I know. Them want to be, I know. Dijonero to the R.I.O. Ethiopia, then reach Cairo. Circle all across the globe, you see the seeds I sow. Like I know where this on me, I owe. You best believe it. Oh, you've been warned. Are we not playing around? The day is come, so sound the alarm. And yeah, we breaking down. Oh, yes, tearing down. So calm in the storm. And yeah, we raining down. It raining down. The third time's the charm. Yeah, yeah. Originale mattone qua è per Port Royal su Pirata e Radio. Tutti i mercoledì in diretta dalle 21 alle 23. Faia bomba Billan. Same words, different flow, yo, I'm gifty. Lean back to the point at hand. Them have them hand a point at me. Artists with no styles coming at me. Knowing that they have to be joking. So these words have to be spoken. Open up your brain, make it soak in. Pens, pencils, and my utensils. When I eat up beats with lyrical heat. And they tend to not know what lyrical means. My rhyme stalks just grow from spiritual beans. And stalks are green, help me supply miracles real. These songs are testament to all the things that I feel. So if you're with me, all I really ask is believe that I would never let you down in your moments I need. You see me? Oh, you've been warned. Are we not playing around? The day is come, so sound the alarm. And yeah, we breaking down. Oh, yes, tearing down. So calm in the storm. And yeah, we raining down. Ja, ja, raining, raining. Third time's the charm. Until you were my love and me. Oh, your heart. I promise I love you forever. DJ Smash alle selezioni. Questo è Port Royal, Firebomb Babylon, dalle 21 alle 23. Andiamo con un po' di musica live. That you're with me, you ain't got to worry now. Unito, ricomincia. Until you are well in the morning, me. Cranium. Fire. Give me your heart. I promise I love you forever now. And whenever that you're with me, you ain't got to worry now. Don't speak volumes that everybody else can see around. Don't you worry yourself, I will never let you down. Oh no. Run, come, give me a little loving. Early in the morning, darling. Ooh. Run, come, give me a little loving now. In the evening. To you. I will never ever mistreat you. Until the end and anybody will feed you again. And when them talk about bad thing, I tell them go away. You never leave me, you stay right beside me. You make me feel so good in my heart, me can't lie. Love you until the day that I die. Oh, run, come, give me a little loving. Early in the morning, darling. I never lay down, I never stay down. I hope your day's fine, we should spend the day now. Hey, I'm gonna make time, so you should make time. And we should play, I have enough things to say. Hi, let's run away, we can take a vacation. Treasure creation, okay. Hey, we'll go from land to sea. Yeah, this ain't no fantasy, darling. Do anything you want, though. Let me take your worries off you. Stay right here next to me. Yeah, you're in good company, darling. Go anywhere you want, go. Better come back tomorrow because I know it's hard to trust sometimes. But it's harder to be lonely, yeah. So would you rather to be lonely, yeah. You gotta get to know me, yeah. Inna the place, dive up inna the Benz, yeah. Dip on the ends, vibes of you and your friends, yeah. All them a chat, I say I happen to them, yeah. All them a chat, I say them can't make no friend, yeah. Pull up again, I pick up on this out in, yeah. Buy coconut and go rocky boat them, yeah. All them a chat, say we no worry about friend, yeah. Well, I know that we say I happen to them, yeah. You know I've got the time, yeah. I know I'm on your mind, darling. When are you gonna come my way? And are we gonna get to play? It ain't worth denying, yeah. This was pre-designed, darling. I don't know what else to say. And this must be our destiny. I know it's hard to trust sometimes, but it's harder to be lonely. So would you rather to be lonely? Yeah, no way. I know you're scared to give your heart, but you gotta get to know me. Yeah, I said you gotta get to know me. retro. Stepping at them dancing a clock. When the rest of them a beat them stiletto. When we step it, no fit echo. Run through them city like a metro. Silencio. Ay, we nah no time fi dirty bungle. The near up on me mind and me have fi make it pronto. Ay, me nah no time fi dirty bungle. And money pa me mind and me have fi get it. And me say real bad girl no friend fi make walk. Anyway, in the world me bless no blood clot. Remember the days can afford the bus pass. Now I pass when you pass the bus in a S-class. Ay, get a dream. More cream, more skin. More cream mean money fi the whole scheme. Christiana me please know what me mean. Ay, ay. Brown girl from the ghetto. Ear might a retro. Stepping at them dancing a clock. When the rest of them a beat them stiletto. When we step it no fi echo. Run through them city like a metro. Silencio. Ay, we nah no time fi dirty bungle. In Europe and we mine and we a fi get it pronto. Ay, we nah no time fi dirty bungle. And money pa we mine and we a fi get it. Ay, life is such a movie. Make me step up in the scene. Your family was a little picnic. Been a drink all this and dream. I want fi wake up in the morning facing at the cleaner. Run go check my mama. Want fi date in a beamer. Yes, I gone, me gone for tour. Me just a sell out these arenas. Yes, the people show me love. Can't hear myself over them scream, yeah. Life never so easy. I've always been a believer. So me been a work for Leela. From a was just a little girl from the ghetto. Hear my retro. Stepping at them dancing a clock. And the rest of them a beat them stiletto. When we step it, no fit echo. Run through them city like a metro. Silencio. Yeah, we nah no time for the deep bungle. In Europe, I'm a man. And me happy make it run through. Hey, we nah no time for the deep bungle. I'm only pop with mine. And we happy get it. McGill in the documentary. Sim cinematográfica, sicário. Um top na gama. RS com 4 com 8. Femana da de parte do globo. No frado de jeta, cana, capa e no moto. Sudai tô na minha custada. Tenda a rimino de live. Antes exatamente, tenda a rimino de 24. A baby a beauty que essa gangue que contando. 10 mil euros sulo, rindo a aeroporto. E que faz? Já namorame, a namorame, filha e baba. Pudesse me dar ziga, tudo me será de cala. Aro do porta bicho, a meia da jama, madame. Aro bebo no vinho, gado bava. E a fra, me bava mogundo, rima anima mais de bundo. Porque nisso não me dá esquiva quando sou no defundo. Faz companhia que define, se maldiva, som que cabra. Engaça na diva, imprime e safa, vai a mama. A nigga se diz no, fine mo, sulla si, quarta do terrorino. Joro já, olho rossi, ma que lago di shi, mi devi sinistro. Funciona con l'ambo black, passo do sender. A nigga se diz no, fine mo, sulla si, quarta do terrorino. Joro já, olho rossi, ma che lago di shi, mi devi sinistro. Funciona con l'ambo black, passo do sender. Yeah. Fondo verde su Daytona. Com'è che quando vincimo non applaudo. Rinda in auto, rinda in auto. Guarda pure a chi ci applaudo. Risci di Cianaba. Lanzoni perché sui miei non sono pipato. Ma in silenzio mi godo panorama. Guidami con Panamera, se l'anonimate. Sono chi li blocca, mi difende in strada. Danno parlare di cosa faccio, pensa all'avvocata. E chi ci dice no, solo mo, prima no. Perché non te ne vemo, manche so, manche bro. E chi ci dice ve no, quando... No, va roga, va roga. Baby, listen, don't do worry, don't worry your brain. Don't you fret, just listen, I'm saying. Serious, be serious, I'm looking at my face. I'm trying to take you back to my place. No one, baby, just stick to my pace. Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, we up, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. Me desire, beat it with the wire, make me sing out like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up, cause me need little fire in me life. What a long time me no get to see you. Panty wetter than the water way in the real. Take me high up like a me and me Jesus. Come one, then two, then three. Baby, won't you light my fire? Never turn it up fire. Skin. When the neighbor get vexed and get up and knocking. When bedboard it knocking and girl back it cracking. Steadily putting it down and we keep it tracking. A baby girl knowing that nothing ain't lacking. Brand spanking, new machine keep going. Listen to me DJ, listen to me sing. Sound apart from the hard girl I keep talking. Them, them, no, no good love girl. Yo, them, them, no, no good love girl. Them, them, no, no good love girl. Yo, them, them, no, no good love girl. Baby, won't you light my fire? Bang, bang, bang. Can you take me higher? Wanna give them the breath. When you're rubbing on me, fire. You really spark my flame. You know what you mean, let me shut up. Baby, won't you light my fire? Rubba dumba dum, won't you light my fire now? Rubba dumba dum, won't you light my fire? Rubba dumba dum, won't you? Neighbors knocking and they keep on cracking. Adding up, who calculate when they shoot out for days? When the streets at three glocks, beat shot, six pants, kick back, knee knock, fall flat, tree chop, crime scene, see cops, see stock. Who see? Not me, wheel back. Now it's always the ones who don't act, see my maze. Won't see the difference till things complicate. Well, every time you feel as if we have a chance, man, them run. Thank you. better wake up. Don't be surprised if you see an earthquake up. Land full of pirates, the wicked city shake up. Like Port Royal, who really loyal? If all that matters to a man is survival. Peace in them side, just a peace in them pride. Wishing rest in peace to their rivals. So me tell ya, stand up, strap up on a Guinean boots. The time is now, we have to recruit. Come make me chant it, chant it. Come and make me seek the truth. If you're ready, let me see ya salute. To the revolutionists, yes, I'm a revolutionist. Revolutionist, yes, I'm a revolutionist. Revolutionist, yes, I'm a revolutionist, yeah. Osce, ponti contro. Altri 20 minuti di Port Royal. Cause that's the only solution, boy. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano e che ci riascoltano tramite podcast. We have to start a revolution, to take a stand with our women or a man. Joining us together, make us do what we can. Shaky warriors, we cannot be on this island. Straight just like an arrow, aiming at the weakened man. Fight for truths and rights, no doubt is part of the plan. Equality and being free for each civilian. Instilling wisdom to the younger generation. A revolutionary is what we ready virgin. Tell ya, stand up, strap up on a Guinean boot. The time is now, we have to recruit. Come make me chant it, chant it. Come and make me seek the truth. If you're ready, let me say a salute to the revolutionists. Yes, I'm a revolutionist. Revolutionist, yes, I'm a revolutionist. Revolutionist, yes, I'm a revolutionist. Yeah. Make me start a revolution. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Pezzo fresh questo di Aria Heights Production. Conquers all. Babylon no like how the youths them a move. Try to plant a bad seed in their groove. But Jah love conquers all. They will no longer go astray. They know that Jah is the only way. When them ring the alarm, Bob Marley shot the sheriff so him can't see my down. No make no politician take on no fake clown. I could have 6 foot six in a day. No one the ghetto youths we straighten. But when me check a stock, I listen all the reasoning. Me see a Glock, I raise them. And then me sight up on the news how much Echo catch they in a Salem. Watch them a step with the AK-47 bright in a maypen. Selassie, I beg you save them. Listen me, united we stand up. Like when Nani and Sam Sharp, them did a plan up. Balance everything like Marty, my plan. I wouldn't take my brother life, the other dollar. When me see the little drop a sentence, funny white collar. I wouldn't be a killer, say I'd rather be a scammer. Chuck load of money for me daddy and my mother. Yes, I saw we feel and love for one another. Want to get to youths be straightened. But when me check a stock and listen all the reasoning and see a Glock and raise them. And then me sight up on the news how much echo long catch the inner Salem. On TV, yeah. Watch them a step with the AK-47 bright in a Maypen. Selassie, I beg you save them. Sell out the innocent, load the gang war. From school days, yeah, your brother did a par. Now a little flare up, wanna mar up on tar. Big traitor send drive by in a car. Say you a go catch me and me family a par. Wanna way a good a day a funeral or bar. Hear me no star, hear me no star. Take me off of your radar. And nobody's trading. But when my check a stock and listen all the reasoning and see a Glock a raise them. And then me sight up on the news how much echo long catch they in a Salem. Watch them a step with the AK-47 bright in a Maypen. It had the healing of the nation. Give me sweet sensation. Yeah. I ingress if I make me roll a meditation. Me want fi smoke up the weed, smoke up the weed, until me eyes them a bleed. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. I the eyes red with the way we smoking. I and I yabby la vibes in a the feeling. Makes me feel high, it a me medicine. Make sure you no mix up with the chemical thing. Natural herb and when we smoking. Me want fi take a shot in the morning. From the sunshine rise, it a burning. We put it in the chalice and start a healing. Yeah. It was found from Solomon bread. Sweet sense Mila relieve all the pain. It's good for your asthma and it's good for your brain. One spliff a day make me stay out of problem. We never want no violence, never want no bloodshed. I manna sit up on the hills a whole of meds. From the mountain top we light it up and take a lift. It will never hurt me yet, it makes me eyes them a twist. Eyes great with the way we smoking. I and I a feel a vibes in a the feeling. Makes me feel high, it a me medicine. Make sure you no mix up with the chemicals. Natural herb when we smoking. Me want fi take a shot in a the morning. From the sunshine rise, it a burning. We put it in a wee chalice and start a healing. So give me the marijuana, make the good vibes flow. Oh, oh, oh. Give me the ganja plant and make me burn it up now. See it. Spiritual healing. It is a spiritual healing for each and every one. For the young and the old. Make we burn it up now. Make we burn now. It up now. Ooh, ooh, ooh. We done make me, make me, and make me. Makes me feel high, it a me medicine. Make sure you no mix up with the chemical thing. Natural herb where we smoking. Me want fi take a shot in a the morning. From the sunshine rise, it a burning. We put it in a wee chalice and start a healing. True them no know say we bad. Them better know say we smart. We smoke the ganja hard. Now we never